pani. Non erano asciutti? Appunto. Appunto cosa? Non erano asciutti perché erano bagnati. Allora bisogna stendere. No! Ci ha piovuto sopra. Ma che piovuto! Avrà fatto due gocce. Due gocce radioattive, però. Vabbè. Adesso questa che non si potessero stendere pani ancora non l'avevo sentita. Non si sa mai. Non mi fido. Lavali. Ma hanno detto che non c'è nessun pericolo. Non c'è nessun pericolo? Non puoi bere il latte? Non puoi mangiarti la verdura fresca? Quando vai fuori nel bosco per farti una passeggiata prima di entrare in casa tu voglio toglierti le scarpe? Ma hanno detto che le Alpi ci hanno fatto da scudo. E adesso la nube tossica non scende più in Italia ma riprende il viaggio verso il nord Europa. Chi te l'ha detto? Il telegiornale oggi. Il telegiornale? Ma lo vedi che non hanno la minima idea di quello che dicono? Stamattina parlavano della differenza tra la verdura a foglia larga e la sparago punta. Qui stiamo parlando delle radiazioni, della contaminazione del pianeta, della morte invisibile. E questi ti rispondono che devi meglio della nonna. La nonna la verdura a foglia larga, non la puoi mangiare perché ci piove la radiazione sopra. E invece l'asparago a punta la puoi mangiare, certo, perché l'asparago è un ortaggio magico anti-radiazioni. Che fai con la faccia? Ho fatto la faccia. Brava. L'asparago radioattivo è cucinato. Ma che dici? Ma quale asparago radioattivo? L'asparago di Tavagna? Guarda. Guarda. Carta canta. Garantisce la sua qualità assoluta e idoneità al consumo alla cooperativa dell'asparago bianco. Tavagna! Gianna. Hai letto l'articolo sotto che cosa dice? La sagra delle erbe non ha paura di Chernobyl, vi aspettiamo a Basiliano ore 21. Certo. Allora se la sagra delle erbe non ha paura di Chernobyl, stasera ti porto lì e ci mangiamo la lattughina fresca e le pettine di campo e gli asparagi quando stiamo tranquilli. Ma allora adesso cosa ci possiamo mangiare? Chi ce lo dice? Chi ce lo dice? Pochi anni la popolazione era raddoppiata. La centrale di Chernobyl distava soli 3 km a sud-est. Da quando aveva fatto il servizio di leva, Basia non voleva saperne d'altro. Era il suo lavoro. I rossi cani dei pompieri della città pulita. Iusi e Basia abitavano negli alloggi dei vigili del fuoco. Al primo piano per altre tre famiglie. La cucina era in comune e infatti mangiavano sempre tutti quanti insieme come una grande famiglia. E di sotto al pian terreno c'era la rimessa dei carri antincendio. Di notte quando i vigili venivano chiamati. Con il rumore della sirena svegliavano tutto quanto il vicinato. E la domenica, quando la gente della città usciva per fare una passeggiata, incrociava i vigili del fuoco e li salutava chiamandoli tutti quanti per nome. E Pravik, e Tiscura, e Basia! I bambini si divertivano ad imitarli, giocando i vigili giù al parco vecchio. E il primo maggio avrebbero inaugurato il Luna Park a Pripyat. A Pripyat era tutto quanto super funzionale. C'erano due ospedali. Alberghi, ristoranti, cinema, teatro, un centro sportivo con piscina che dominava la piazza centrale. Pripyat era considerata il fiore all'occhiello dell'Unione Sovietica. Il 9 maggio, alla festa della vittoria, perché in Russia il 9 maggio si festeggia la vittoria della Seconda Guerra Mondiale, alla parata la strada si ricopriva di fiori. La città era così piena di luoghi fioriti da essere chiamata la città dei fiori. Come Sanremo? Come Sanremo? Ed è proprio durante la parata dell'85 che Iusi e Basia si sono incontrati. È stato un attimo e tutto è cambiato. Ballano sotto i fuochi della luce. e Basia ti dice che il cielo sembra cambiare colore come a Mosca per la festa della vittoria. Quella notte, alle 9 di sera a Mosca, il cielo si illumina di tutti i colori, verde, giallo, rosso, blu, viola, che cadono dall'alto. Lo scoppio dei fuochi d'artificio è come una pioggia di batti e tutti trattengono il fiato perché per 2 ore non si capisce più se è giorno o se è notte. Per 2 ore? Sì, lo vedo. No, non c'è. Ti giuro che è vero. Ma non può essere. E allora ti sfoga. A Mosca per il fuoco d'artificio. Sì. Prometti? Ce lo prometto. Oh, signorina, il mio cappello. No, il mio cappello. Il mio cappello, signorina. Voglio solo vedere come sta, solo uno sguardo. Poi farò tutto quello che dice lei, la prego. Vai via di qua, vattene! Pensa al bambino. Ma cosa stai dicendo? Come faccio a lasciarti qui? Ci sposto una mosca. Tu devi portarmi solo documenti e vestiti. Cosa? Non ti capisco! Vai a casa e portami documenti e vestiti. Ah, va bene, documenti e vestiti. E poi per il resto si deciderà. Brava. Adesso però vai via di qua, sbrigati, corri. Eh sì, sono io. No, no, io devo restare qui a rimpiazzare, non posso partire, aspetto mia moglie. Io non voglio venire la mosca, io ho la costituzione forte, mi riprendo in testa, sto già molto meglio adesso. No, no, no, io non voglio venire con voi. No, io voglio andare da qui, no, io voglio tornare a casa mia! Giulia! Giulia! Le strade ricoperte di schiuma bianca, ci sprofondo dentro con tutte le scarpe. Da un lato della strada una fila di autobus, dall'altra una fila di carri dei pompieri fermi. In lontananza la sagoma della centrale, un bagliore diffuso, color lampone chiaro. È un'aurora chimica, ma tutti a Pripyat ancora dormono! Nessuno parlava di radiazioni. Piangevano solo le mogli di quelli che erano stati coinvolti nell'incidente. I primi a vedere la centrale in fiamme erano stati i vigili del fuoco, Kiteno, Bravi, Tiscura, Basia ed altri. I medici dicevano che erano stati dei gas ad avvelenarli, che dovevano bere latte per disintossicarsi. Nessuno parlava di radiazioni. Soltanto i militari indossavano delle maschere. Nei negozi il pane, la carne, i formaggi, la verdura, i dolci erano esposti sui banconi senza alcuna protezione. Nessuno parlava di radiazioni, intanto la città si riempiva di veicoli militari. Delle squadre speciali sforzavano dappertutto schiuma bianca. Tutte le strade venivano sbarrate, i treni non viaggiavano più. La vita dei cittadini di Pripyat per 3 giorni continuò normalmente, o quasi. Ma dove l'avete portato? A Mosca. Senza neanche farmelo vedere. Mio marito? Un segreto di Stato, segretissimo, ma che cosa state dicendo? No! No! Io mio marito non me lo do. Scusi, io starei cercando... una mosca. Scemo. Ferma. Allontanati. Ma sono tutte sciocchezze. Lo sai, a Pripyat non fanno altro che parlare di voi. I nostri vigili del fuoco. I primi ad arrivare sul posto. I nostri eroi. Noi abbiamo fatto il nostro dovere. E le radiazioni non sono sciocchezze. In città è cominciata l'evacuazione. La città verrà completamente evacuata in 2 o 3 giorni. Tutti quanti hanno preparato indumenti caldi, tutte sportive, spiedini per il viaggio e chitarre. Hanno detto che si vivrà nei boschi, una terra scampagnata in mezzo alla natura per il 1° maggio. Lui cominciò a cambiare. Ogni giorno vedeva una persona diversa. Le ustioni appioravano in superficie, in bocca, sulla lingua, sulle guance. La prima solo delle lucerette che poi si allargavano. La mucosa si staccava a strati, in pellicoline bianche. Il colore del viso, il colore del corpo, blu, rosso, verde, marrone. Andava di corpo da 25 a 30 volte al giorno con sangue e muco. La pelle delle braccia e delle gambe cominciava a lacerarsi. Si copriva tutto di bolle. Quando muoveva la testa sul cuscino, restavano dei ciuppetti di capelli. Cercavo di scherzare, beh, anche meglio, si fa meno del pettine. Di lì a poco rasarono tutti i ricoverati a zero. Mi occupai io stessa di tagliarmi i capelli a base. Volevo fare io tutto quello che gli occorreva. Finché restavo con lui evitavano di farlo, ma quando io non c'ero lo fotografavano. Indosso non aveva niente, era nudo, coperto soltanto da un lenzuolino che cambiavo io ogni giorno. E la sera era tutto insanguinato. Quando lo sollevavo, dei pezzetti della sua pelle mi restavano appiccicati al dito. Gli chiedo, caro, aiutami anche tu. Puntellati con il braccio. Sollevati sul gomito per quanto puoi, perché io possa lisciarti bene il letto. Ogni minima grinza sul lenzuolo mi procurava una piaga. Per non fargli male, tagliavo le mie unghie talmente corte che sanguinavano. Nessuna delle infermiere osava avvicinarsi, toccarmi. Per qualsiasi cosa chiamavano me. Gli sollevo il braccio e sento l'osso che gli balla. Gli penzo là dentro perché la carne si è staccata dall'osso. Dalla bocca gli uscivano dei pezzetti di polmoni, dei pezzetti di fegato. Rischiava di restare soffocato dalle sue stesse interiora. Gli arrotolo una benda intorno alla mano e gliela infilo nella bocca per vuotarla da quella roba. Le parti del corpo cominciavano a gonfiarsi, a malformarsi, le mani, i piedi. Sicché quando morì non ci fu modo di infilargli le scarpe. Non si trovò una misura abbastanza grande e lo misero nella bara scalzo com'era, in alta uniforme, sotto i miei occhi. Lo hanno infilato in un sacco di plastica, che poi hanno legato e messo in una bara di legno. E la bara di legno è stata avvolta in un altro sacco di plastica. Il tutto è stato messo in una bara di zinco, con il berretto posato sopra. Dicevano la stessa cosa a tutte le famiglie. Non possiamo restituirvi i corpi dei vostri figli, dei vostri mariti. Sono molto radioattivi e verranno seppelliti a Mosca nel cimitero di Mitino con un procedimento speciale. Sigillati sotto lastre di cemento. Voi dovete firmare questo documento. Se qualcuno si rifiutava perché voleva riportarsi la bara al paese, lo dissuadevano dicendo che ormai i figli non appartenevano più alle famiglie. Erano uomini dello Stato. Eroi. Ma hanno detto che andrà tutto quanto bene. E che presto Torneremo a casa. Mi piacerebbe vedere il nostro bambino. Che nome gli vogliamo dare? E lo deciderai tu. Perché io se siamo due? Allora se nascerà femmina la chiameremo Natasha. Se invece nascerà maschio lo chiameremo Vasia. Perché Vasia? Io sono già Vasia, sei tu. Non ne voglio un altro. E signorina? Mi sa dire che ore sono? Sì. Le 9 di sera. Vai alla finestra. Ci sono i fuochi d'artificio. Te l'avevo promesso. Ti avevo promesso che ti avrei fatto vedere Mosca. Mosca è il cielo che si illumina al giorno. Sì, è vero. Me l'avevi promesso. Ed è proprio come mi avevi raccontato. Il cielo si illumina di tutti i colori. Mio unico e solo. Amore mio. Vasia. Vasia. Vasia! Oggi Briga è una città fantasma. Le radiazioni si sono riversate nell'aria, nella terra, nella roccia, nell'acqua. La durata della contaminazione sull'ambiente non è calcolabile. Può protrarsi per anni, decenni, secoli. Gli isotopi radioattivi contaminano tutti gli elementi indispensabili per la vita della vegetazione, degli animali, dell'uomo. Le radiazioni colpiscono il corpo umano. Oiello 131 attacca la tiroide e il sangue. Lo stronzio 90 si sostituisce al calcio, dunque attacca le ossa. E cesio 137 attacca i muscoli e il cuore. Le radiazioni provocano danni ai tessuti, agli organi interni, al sistema immunitario, al sistema nervoso, al sistema muscolare. Mutano il codice genetico. La catena del DNA si stravolge e si ricompone in maniera differente. Tutte le informazioni inviate alle cellule improvvisamente cambiano. Ciò comporta leucemie, tumori, neuropatologie, sterilità e rischio esponenziale di malformazioni e problemi congeniti nelle nuove generazioni. Le vittime di Chernobyl, infatti, non sono solo coloro che hanno assorbito le radiazioni in maniera diretta, ma anche i loro figli, i figli dei figli, i nipoti dei nipoti. Le conseguenze sono state maggiormente letali per i bambini, poiché i loro organismi erano ancora in fase di sviluppo. Le terre intorno a Chernobyl rimarranno contaminate per almeno 300 anni. La contaminazione ha riguardato in maniera diretta un'area di circa 200.000 km quadrati. E più della metà del cesio 137 emesso in seguito all'esplosione è stato trasportato dai fenomeni atmosferici e ha raggiunto altri paesi europei. Almeno altri 14 paesi europei, oltre a Ucraina, Bielorussia e Russia, sono stati contaminati. Austria, Slovenia, Polonia, Romania, Ungheria, Svezia, Norvegia, Svizzera, Bulgaria, Repubblica Ceca, Repubblica di Moldova, Grecia. Italia. A 25 anni dal disastro, il numero delle vittime non è ancora precisamente quantificabile. Secondo il Center for Russian Environmental Policy di Mosca e l'Institute of Radiation Safety on Minsk, Bielorussia, il numero provvisorio dei morti a causa del disastro di Chernobyl ad oggi è di circa 1 milione di persone. Ci hai pensato? Sì. E tu? Sì. E allora? Sì! Sì! Oggi pensavo quando andiamo a prendere lo portiamo qui a casa. Cosa gli facciamo fare? Il primo posto che gli facciamo vedere. Il primo posto? Gemona! Gli facciamo fare tutto quanto in giro del paese. Le mura medievali. Il parco delle farfalle. Sì! Però non possiamo fargli vedere soltanto i paeselli. Ma guarda che Gemona non è un paesello, è un bellissimo borgo. Sì, ma non possiamo fargli vedere soltanto le montagne. Chi ha detto che gli voglio far vedere soltanto le montagne? Mi sono fatto fare un permesso speciale e lo portiamo a mare. Va bene. Sì. Che problema c'è? Che hai? Che strano. Ho parlato con Pietro oggi. Mi ha detto che l'anno scorso la sua bambina bielorussa, una delle ultime sere che stava con loro, è uscita dalla doccia con una mano sulla tetta. La tetta adesso! Quanto avrà avuto? 7-8 anni? La tetta! Il capezzolo, bene, lì sotto aveva un nodulo, e lei già a 9 anni sapeva cosa poteva essere. Quindi quando arriva il nostro bambino ucraino lo controlli. E come lo controllo? Il primo momento che si fa, vedi se i nipoti sono grossi. Certo, bella soluzione. Io questa cosa non la faccio proprio! come altro vuoi fare, è l'unico modo veloce per capire se il bambino è sano. Ho capito, ma è piccolo, mica è stupido, se ne accorge che sono lì a fare il bagnetto. Allora portiamo dal dottore, dobbiamo anche ricordarci di comprare le vele, perché nel c'è quella cosa che fa bene loro. La vecchina. Comunque, prima di dare la nostra disponibilità definitiva, pensiamoci bene. Perché dici questa cosa adesso? Perché Pietro sta male per questa storia che ti danno i bambini, massimo 3 stati, perché poi ci si attenziona. È per dare l'opportunità anche ad altri bambini di essere ospitati in Italia. Poi non sai che fine fanno. Dai, vabbè, non esageriamo. Un modo per rimanere... Se poi vuole! Molti di loro non superano i 20 anni. Io non so se me la sento. Di avere qua in casa un bambino. La seconda lo scherzo. Ho capito, però la cosa giusta da fare adesso. Poi io già me lo vedo qua in cucina che corre come un matto, che si inventa le storie, che canta le canzoni. Glielo insegniamo una a noi. Italiano e Battiato. Perché Battiato quale? Bandiera bianca. Bandiera bianca? Yusia torna a Mosca e proprio in quello stesso ospedale in via Smokinskaya in anticipo di 2 settimane mentre al mondo una bambina. Decide di chiamarla Natasha, come le aveva chiesto il suo padre. Ma la bambina muore 4 ore dopo il parto, perché era malata al fegato e al cuore. Il feto aveva assorbito come una spugna tutte quante le radiazioni con le quali la donna era entrata in contatto stando in ospedale accanto al marito. Ed anche questa volta non le vogliono restituire il corpo. Vogliono tenerselo per analizzarlo, per la scienza, le dicono. Ma lei fa di tutto. Grida, urla, impreca e alla fine le consegnano una scatoletta di legno. La prende, la apre. E dentro trova avvolto in un pannolino il corpicino. Va al cimitero di Mitino e decide di seppellirla con le sue stesse mani accanto alla tomba di Vasia. Tutte le volte che li va a trovare porta sempre 2 mazzi di fiori. Anche se lì c'è solo la lapide di lui. Della bambina non c'è niente, neanche il nome. Dopo 2 anni, a 25 anni, Yusia decide di avere un altro figlio. Incontra un uomo che non li vedrà mai più. Gli racconta tutta quanta la sua storia e gli chiede di aiutarla. Rimane incinta. Ma tutti quanti le sconsigliano di portare avanti la gravidanza, perché ormai il suo organismo è troppo debole e poi comunque il bambino sarebbe nato malformato come tutti quanti gli altri. Ma lei non ascolta nessuno. E alla fine mette al mondo un bel bambino, tutto intero. Anche se può andare 2 settimane a scuola e 2 deve stare a casa con il medico. Si chiama Andrei. Ora Yusia e Andrei vivono a Kiev. Hanno consegnato loro un bel appartamento pieno di stanze, proprio come quello che Yusia aveva sempre sognato con il suo padre. Lì vivono in tanti, i parenti delle vittime, tutti quelli che lavoravano alla centrale, vivono tutti quanti sulla stessa via. Una via normale, fatta di marciapiedi, aiuole, panchine. Ma quella via la chiamano proprio così, via Cerni. Gianna! Gianna! Carlo! Amore! Zorro! Ma stai in casa? Sì! Ma sei qua? Come è andata oggi? Bene. E sì? Bene, c'era il traffico pure oggi sulla Venezia Trieste e poi il ciclo. Cosa? È arrivata la lettera. Sì! Non l'hai aperta, vero? No, ti aspettavo. Cari Gianna e caro Carlo, ho cominciato un nuovo lavoro. Metto a posto i banconi del mercato la mattina. Anastasia e io andiamo a vivere insieme. Io sto bene. Voi come state? Che tempo fa, Udine? Vi penso tanto. Ciao mamma. Ciao papà. Andrei. Non ha scritto se ci vengono a trovare. No.